140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter, seguendo il mio account @MartaCagnola o con l'hashtag #cancelletto140caratteri. Come ogni settimana, mano a mano ci avete anche mandato in diretta via Twitter le vostre domande. Ecco gli spettacoli di questa settimana dalla viva voce dei protagonisti. Terrazza Martini, Milano. La storia della folle reunion di una rock band anni 90, nel cast tra gli altri un grande Corrado Fortuna, di Carlo Virzì, i più grandi di tutti. Quando uno si cimenta in una cosa come un film, mette per forza in scena un po' di verità. Se non conosci bene la cosa di cui stai parlando, rischi di andare fuori dalla verità e idealizzare. E quindi mi ero prefisso, diciamo, dopo il mio primo film del 2006, film che veniva tratto da un romanzo, quindi una storia che non mi apparteneva, sebbene ambientata in un contesto che potevo conoscere molto bene. E questo progetto invece nasce proprio dall'esigenza di raccontare qualcosa di vicino, molto vicino, e anche per non sbagliare, ecco. Inutile sarebbe stato scrivere un soggetto, che so, su degli assicuratori di Brescia o su dei marinai ungheresi, non lo so, non c'è il mare in Ungheria. È un mondo che conosco bene, quello dei musicisti, quindi pensavo che potesse essere molto semplice per me renderlo vero. Che poi, come ti dicevo praticamente nella mail, si tratterebbe di fare, ecco, una bella intervista approfondita a tutti e quattro i membri dei Pluto, da integrare poi anche con filmati di repertorio per realizzare, ecco, un film documentario di una sessantina di minuti. L'idea è quella di integrare il capitolo Pluto all'interno di un format sulle rock band più importanti della scena nazionale, da distribuire poi nelle edicole col mensile Sgt. Pepper e da promuovere anche con una serie di importanti concerti. Al progetto, tra l'altro, partecipano anche realtà molto importanti come Elite Fiba, gli After Hours, i Subsonica, i Negrita e tanti altri. Ovviamente non poteva mancare la mitica band dei Pluto, che, come avrei capito, sono i miei preferiti. Ma ti vedo un po' perplesso, Loris. Cos'è? Forse non ti va di mescolarvi a realtà, diciamo così, un po' più commerciali? Però non c'è nostalgia, non c'è un'aria appunto di accidenti quegli anni che sono passati, no? Sì, esatto. Cioè, non è un'operazione nostalgia, non si vuol dire come si stava bene, quando si suonava, ora o purtroppo. No, è per certi versi il passato per i nostri protagonisti è doloroso, cioè è una cosa che vorrebbero rimuovere, cioè il protagonista ha preso tutto e ha incartato dentro una scatola e l'ha messa in cantina. Questo ci racconta quanta considerazione ha di quella stagione, insomma, non certo nostalgica, l'ha archiviata. Ma quando vede che probabilmente è un modo per ottenere qualche cosa, chi ci vede un ritorno economico, chi ci vede un ritorno di immagine, fra virgolette, all'interno della propria famiglia, là dove c'è un figlio che vede un padre, guarda il padre con uno sguardo come fosse un buon a nulla, e l'occasione di ritornare sul palco a suonare il rock and roll con tutto quello che concerne il concerto, le luci, la potenza sonora, fa sì che questo bimbo cambi opinione su sto babbo e diventi un po' il suo eroe. E questa è la cosa che a cui tengo di più della storia, diciamo. Dunque, io pensavo di iniziare ripercorrendo proprio tutte le fasi della vostra carriera musicale. Gli inizi, il contatto con la BFM, il successivo passaggio alla Gorky Records, per poi analizzare nel dettaglio anche quello che è stato l'episodio determinante per lo scioglimento del gruppo. Quando avete ceduto un vostro brano per uno spot pubblicitario. Ah, io ero contrario, eh. Me lo immaginavo, Mao. Perché per uno come te deve essere stata una decisione combattuta. Sì, le crame dell'anticalcare. Una macchina, anche. Una Lancia, una BMW, una telefonia mobile. Beh. All'anticalcare, che schifo. Ci dettero 350.000 lire. C'è però anche un impianto quasi documentaristico, addirittura hai trovato dei cameo che non svegliamo, ma bisogna dire agli spettatori di non uscire quando iniziano i titoli di coda. Come mai questa scelta appunto del documentario, del rockumentary o anche mockumentary, visto che i Pluto ahi noi non sono mai esistiti davvero? Esatto, siccome durante la, diciamo, il racconto uno si rende conto insomma della finzione, insomma Claudia Pandolfi non poteva suonare negli anni 90 in un gruppo rock, faceva la ginnasta appunto, oppure insomma se uno si ferma a ragionare un attimo dice no, non possono esistere, sono un gruppo di finzione. E invece mi piaceva finire il film insinuando un piccolo dubbio nel pubblico, ma forse sono esistiti davvero. E quindi questo piccolo mockumentary, di questo posso dire per ora, che c'è, che vedrete alla fine, veramente un microscopico, una pillola, ci sta lì a dimostrare che probabilmente è tutto vero quello che il pubblico ha visto fino a quel momento. È un'idea sua? Te l'ho detto, se male passo, scusa, non sapevo. Perché l'hai portato qui? Cicina? Sì. Hai degli ospiti di riguardo e non me li presenti? Lui Armando è mio fidanzato. Fidanzato che brutto. È meglio compagno, no? Lui Armando, lui è Loris, il batterista del mio gruppo. Ah, siamo a missione per conto di Dio. E ci sarà mica anche quell'altro disperato. No, Loris è venuto per parlarmi di una cosa di lavoro. Sì, un'intervista, tutti e quattro insieme noi del gruppo. Intervista. E chi vorrebbe intervistarmi? Uno psicologo. Sei fame, serviti pure. Però adesso scusa, ma siamo nel mezzo del rinfresco. Sì, fate per pazienza. Con permesso. Ora, arrivo subito. Io ho già mangiato. Senti, scusa, ma è meglio così. Vai. Ciao. Corrado Fortuna, un groupie di Carlo Virzì, per questo che hai accettato il film. Ma io sì, sono stato abbastanza groupie di Carlo e degli Snaporaz, che era il gruppo in cui Carlo Virzì cantava negli anni 90, più o meno come lui e Ludovico per i Pluto. No, ho fatto anche un provino. No, davvero? Veramente, nonostante voi dire, Carlo, siamo uno dei miei più cari amici e lo vedo... Ne ho fatti anche due provini. Il tuo ruolo, quello di Ludovico, è un ruolo molto delicato, anche perché ti muovi su un territorio non facilissimo, bisogna spiegarlo, insomma. Sei un ragazzo che ha avuto un incidente, che è sulla sedia a rotelle, però non c'è pietismo, non c'è... Come hai costruito insieme a Carlo questo personaggio? Allora, io sono nella... Sono molto legato a questa cosa, ho avuto una fortuna a 18 anni, io quando si è trattato di fare l'obiettore di coscienza, che ancora era obbligatorio quando avevo 18 anni io, sono stato mandato a Palermo, nonostante vivessi già a Firenze, in un centro per disabili gravi, in cui arrivavo lì la mattina alle 6 e mi occupavo di tutto quello che un disabile non può fare essendo tale, cioè la doccia, la colazione, vestirsi. Quindi a 18 anni quando ti propongo una cosa del genere ti terrorizzi. Almeno per me, per la mia vita, è stata un'esperienza importantissima che ho avuto modo poi di mettere a frutto quando mi è stato proposto questo personaggio. Bastava raccontare la verità. La carrozzina diventano i piedi semplicemente di una persona, non diventa la testa di una persona. Quindi sulla carrozzina semmai amplifichi i tuoi pregi, i tuoi difetti, ma rimani la stessa persona che eri prima dell'incidente, se è stato un incidente a costringerti sulla sedia a rotelle. Quindi alla fine su quella carrozzina mi ci sono seduto io ed è stato immediato provare a raccontare i miei difetti, i miei vizi, il mio essere viziato. Anch'io sono un bimbo di una famiglia per bene, borghese di Palermo, della Palermo di Via Libertà, viziato. Quindi ho cercato semplicemente di dimenticarmi che Ludovico sia su una carrozzina. Te chi sei? Moia! Mi ha fatto prendere in coccolone. Io sono Mao e te? Sei amico del mio babbo. Di più, io e tuo babbo si suonava insieme. Anche te sei disoccupato. Così no. Guarda che io e anche il tuo babbo siamo delle rockstar, mica cazzi. Budino. Mamma non vuole che mangi di notte. Mamma ora dorme però, Eppure, nonostante questo aspetto, sia tu che Ludovico siete molto rock. Grazie, è vero. Io credo che il rock sia un atteggiamento della vita. Prima qualcuno chiedeva a Claudia cos'è la trasgressione. Secondo me in un paese come il nostro per essere trasgressivi basta essere fuori dalle etichette, no? Considerare anormale la normalità, e questo è il miglior modo per essere trasgressivi. Le etichette, tra cui anche quella di trasgressivo, basta non sentirci, sì. E Ludovico è molto rock, Ludovico è molto rock, hai ragione, ti ringrazio per averla notata. E anche Corrado. Corrado è molto rock, nel senso che da quando era ragazzino ha sempre sognato di suonare sui grandi palchi del rock and roll, poi il mio lavoro è stato mutuato in altro, però insomma io continuo ad avere tipo una dozzina di chitarre in casa, un pianoforte, una batteria, e massacro un po' tutti questi strumenti qua. Non poterli suonare nel film mi ha anche un pochino fatto patire, se devo dire la verità. 140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. La musica nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Studi di Radio 24, Milano. Un tempo avevano l'X Factor e un talent li ha rivelati, ma ora suonano la loro musica, The Bastard Sons of Dioniso, e per non fermarsi mai. Era il nome di un gruppo che avevo prima, quando si suonava ancora per avere un espediente per fare qualcos'altro. Era anche sbagliato, era scritto proprio sbagliato. Poi abbiamo cambiato nome e quando ho incontrato Federico e Michele, alla fine abbiamo deciso di utilizzarlo perché si era intriso di tantissimi significati e l'abbiamo corretto e adesso è il nostro nome. Avete già una storia piuttosto lunga, perché avete una prima parte della vostra storia di grande esperienza, live, musica vera, poi una parentesi che è servita a farvi conoscere e adesso ricominciate a fare la musica che volete voi. Partiamo dall'inizio, come siete partiti? Ci siamo conosciuti alle superiori, facevamo periti edili, tutti e tre, siamo tre periti, ognuno aveva i propri gruppi. Abbiamo deciso di fare musica originale e quindi siamo nati così, con una festa in una baita, il giorno di Ferragosto del 2003. Abbiamo detto baita perché voi non è che venite proprio da una metropoli, virgola, anzi. Abbiamo la fortuna di poter stare su per le montagne, quindi anche un po' certe volte isolati da quello che è la vita di una città e le possibilità che hai di incontrare più persone, di avere più opportunità. Però alla fine è la nostra dimensione della vita di tutti i giorni e stiamo bene così. I nasi rotti si aggiustano, culate d'oro li riempiono, a bianche file si prostrano, senza paure aspirano. Dove sarà la virtù, amore, fortuna, qua giù, che mi sgambettano già da troppo tempo. A un certo punto come vi è venuto in mente di prendere e fare X Factor? Vai vice dai. Ma in realtà è stato una specie di scherzo, oppure una cosa presa molto superficialmente. Ci hanno proposto di fare i provini, diciamo. Niente, hanno sentito su internet più che altro di pezzi registrati e la redazione ci ha chiamato per provare a fare il provino. Noi superato lo scetticismo iniziale abbiamo provato e da lì una volta presi abbiamo detto vediamo fin dove si può arrivare. Ed era andata benissimo, però. Era andata bene. Cioè, noi abbiamo cercato di non snaturarci, di restare più... più noi stessi possibile, esatto, però più... naturalmente se ti proponi... cioè, quella che vince lì nella trasmissione non è la musica che fai o il lavoro artistico che c'è dietro alla nostra musica. Lì si dovevano reinterpretare dei pezzi di altri e la nostra vera espressione non l'abbiamo potuta... avere in mano, e quindi tantissime persone ci hanno conosciuto soltanto per quello che siamo apparsi in quel frangente. E com'è stato uscire da un talent e quindi con una certa impostazione poi voler dimostrare invece che la vostra realtà e la vostra musica è un'altra cosa? Per noi prima era molto difficile poter presentarci a delle persone nell'ambito lavorativo della musica, per avere un appoggio di mezzi, un appoggio dal punto di vista della produzione o della distribuzione, perché non ci conosceva nessuno e nessuno avrebbe avuto diciamo l'istinto di darci una mano da quel punto di vista lì. Il programma ci ha fatto conoscere delle persone che altrimenti non ci avrebbero mai potuto vedere o sentire, e abbiamo ricevuto un grosso aiuto per quest'ultimo album, perché abbiamo deciso di registrare tutto noi, fare tutto noi e poi presentare il lavoro, e chi voleva veramente lavorare su quello che facevamo sarebbe entrato a far parte del progetto. Infatti è andata bene, abbiamo trovato chi ha voglia di lavorare sul progetto veramente, invece di cercare di lavorare su quello che siamo a livello di aspetto, insomma, di quello che sembriamo. Silenzio, la realtà mi molesta. È già da un po' che ti fischia la testa. Esagero, e fragore. Non fermarsi mai, è già il titolo, insomma, fa capire che siete determinati a non fermarvi mai. No, ma questa, diciamo, è una ricetta. Noi siamo sempre espliciti quando facciamo un titolo, e chi lo capisce va bene, chi non lo capisce lo capirà. Diciamo che è il nostro modo per poter fare una musica di nostra, e senza dover star lì a aspettare che qualcuno ti debba per forza aprire delle strade, perché... è l'unica maniera che abbiamo di poterci esprimere veramente, ma noi siamo molto felici di questo. Diciamo che è un momento un po' particolare per chi ha intenzione di fare del rock and roll in Italia. Ci sono un po' di difficoltà, però noi ce la caviamo con i concerti, con il disco. Però tutta la proposta musicale è concentrata dai media... in determinati gruppi, insomma, che vengono proposti, o artisti internazionali, e gli artisti italiani fanno proprio molta fatica a trovare un loro spazio a livello di media, e la situazione da quel punto di vista lì è proprio scarsa, perché capisci che il mercato condiziona veramente anche il movimento culturale che ci sta attorno alla creazione di musica vera e propria. Molto spesso gli interpreti hanno una facilità maggiore perché ci sono più interessi da condividere sulle canzoni e su come viene costruita tutta la situazione. E è un po' triste, però di positivo c'è che, essendoci una crisi proprio di quello che è il vecchio apparato su cui si basava tutta la faccenda, chi è veramente un artista può pensare di durare nel tempo, invece chi vuole approfittare di certe situazioni di mercato forse l'avrà un po' più difficile sulla lunga. Noi puntiamo, diciamo, andare avanti. Sarà sempre in salita, non dico che ci sarà una discesa prima o poi, però a noi va bene così. E con i Bastard Sons of Dioniso si conclude il nostro 140 caratteri. Continuate a seguirci ogni giorno attraverso il mio Twitter, @MartaCagnola. L'appuntamento in radio è per domani, con una puntata speciale, poi ancora domenica prossima.